nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, ben trovati qui a Nessuna è Perfetta, il programma che, come sapete, si batte per l'abolizione nelle nostre teste, prima di tutto, della devozione al multitasking. Ci battiamo, però in realtà, a cominciare da me, spesso, come dire, perdiamo la battaglia. Non sempre, però, funziona male questa nostra, diciamo, devozione al multitasking. Vi ho raccontato che io sono stata per 6 settimane negli Stati Uniti a Chicago, e mentre ero lì a insegnare agli studenti dell'Institute of Politics, però incontravo anche molti professori che passavano da Chicago, soprattutto dalla Chicago Booth. E uno di questi professori con i quali mi sono trovata a chiacchierare era appunto Francesco Giavazzi, autore di un editoriale sul Corriere della Sera che mi ha molto colpito. La rinascita di Milano giocata un po' in contrapposizione alla perdita di glamour o di appeal di Londra, soprattutto se il referendum convocato per il 23 giugno, il Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, incontrasse il favore degli elettori. E allora proviamo un po' a sognare, proviamo a immaginare che davvero Milano possa giocarsi nella competizione con Dublino, con Francoforte, le città di cui si parla come potenziali successore di Londra se ci fosse Brexit. Proviamo un po' a sognare e immaginare che Milano si giochi la sua partita, e lo facciamo naturalmente proprio con lui, col nostro agente provocatore di questa domenica, che è per l'appunto Francesco Giavazzi. Buona domenica, professore. Ma l'eventuale uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea potrebbe essere, lei dice, una grande occasione da cogliere per Milano, a patto che si verifichino 3 condizioni. Quali? La grande occasione deriva dal fatto che alcune istituzioni finanziarie si sposteranno da Londra sul continente, e ci sono 3 posti ovvi: Parigi, Francoforte e Milano. E dipende dalle condizioni che offrono. Quindi la prima condizione è la regolamentazione, cioè bisogna che ci sia una regolamentazione dell'attività finanziaria di buona qualità. E per regolamentazione non si intendono tanto le regole, che più o meno sono ormai uguali in tutti i paesi dell'Unione Europea, ma come le regole vengono applicate, quindi le istituzioni che fanno applicare le regole, che vigilano sulle regole, cioè in particolare la Consob e la Banca d'Italia. E secondo me bisogna fare una riflessione, soprattutto alla luce di quello che è accaduto i bond subordinati venduti a clienti ignari in Toscana, se queste istituzioni fanno bene il loro mestiere. Seconda cosa è la tassazione. Gli investimenti sono molto elevati. Si potrebbe pensare a una cosa che già accade per i ricercatori: se io faccio venire all'università un ricercatore che rientra dall'estero o addirittura straniero, per alcuni anni c'è un livello di tassazione molto agevolato, non per sempre, per alcuni anni, per invogliarlo a trasferirsi in Italia. E terza cosa, la qualità della vita, perché poi qui non sono singole persone, sono famiglie che eventualmente si spostano, quindi ci vogliono buone scuole, ci vogliono città attraenti da tanti punti di vista. Diciamo, Milano parte avvantaggiata, secondo me è più attraente di Francoforte, però c'è anche qui molto da fare. Quindi, tre punti. Ora, il secondo e il terzo, diciamo, potrebbero perfino essere realizzabili, no? Basterebbe appunto una norma come quella per il rientro dei cervelli che è stata varata, e la qualità della vita. Diciamo che a Milano tutti noi che ci abbiamo vissuto sappiamo che la qualità della vita è senz'altro gradevole, costa anche molto meno di Londra e di Francoforte. Il primo punto sembra una montagna difficile da scalare, no? Restituire fiducia agli investitori internazionali. Ma sogniamo e facciamo finta che tutti e 3 i punti si realizzino. Se tutti questi 3 punti ci sono, onestamente, lei pensa che poi gli investitori internazionali e tutti coloro che gravitano intorno anche alla finanza sceglierebbero Milano, una città nella quale non tutti per esempio parlano inglese, mentre sappiamo che le contrattazioni e tutto si svolge in quella lingua. Sì, non credo che si parli meno inglese a Milano che a Parigi o Francoforte, sino che a Francoforte non tutti parlano inglese. Certo, diciamo, dal punto di vista, se uno desse peso 100% al lavoro e zero alla qualità della vita e le altre cose, probabilmente andrebbe a Francoforte, però qui, ripeto, si spostano delle famiglie e quindi gli altri, ad esempio la qualità della vita è una cosa che... Per qualità della vita intendo anche la qualità delle scuole, sono cose che contano non poco nella decisione di una persona. Per qual è il rischio di pensione finanziaria? È che se sposta un suo dipendente a Francoforte, questo dice no, la mia famiglia a Francoforte non va, e dopo 3 mesi cambia banca e va da un'altra parte, quindi queste sono considerazioni importanti. La nostra trasmissione Nessuna è perfetta si rivolge molto alle donne che lavorano. Un'eventuale rivitalizzazione di Milano come piazza finanziaria economica porterebbe anche a un aumento di carriere, di potenziali carriere femminili? Sicuramente il settore dei servizi è più women friendly della manifattura, quindi diciamo se uno spostasse un'industria automobilistica a Milano probabilmente ci sarebbero meno occasioni per le donne che non in un'industria dei servizi, quindi in questo senso aiuterebbe. Poi, diciamo, la cosa che conta in questi mestieri è il grado di istruzione e in Italia c'è un grado di istruzione relativamente elevato, anche questo aiuta. Io credo che la cosa, diciamo, la cosa cruciale però è la regolamentazione, perché se un'istituzione finanziaria internazionale non ha fiducia nelle regole da cui poi deve soggiacere, non si sposta, quindi quella è la condizione. Abbiamo detto, è la montagna più difficile da scalare. Senta, in conclusione io ho una curiosità. Abbiamo parlato di tutto questo se ovviamente gli inglesi, i britannici decidessero di restare fuori dall'Unione Europea. E se invece il referendum Brexit viene bocciato? Noi tutti speriamo che la Gran Bretagna resti, quindi queste sono cose molto teoriche, però se noi ci prepariamo non è che queste cose le buttiamo via, non è che migliorare la regolamentazione finanziaria, ripensare al livello di tassazione, migliorare la qualità della vita siano cose poi buttiamo al vento, no? Chiaramente poi Milano è comunque più attraente, non verranno gli inglesi, forse ci verrà qualcun altro, sono cose che comunque bisogna fare con... Il fatto che spesso una scadenza ti induce a fare delle cose che in tempi normali, se non hai scadenza, non faresti. Quindi è un wishful thinking, ma meno wishful è molto thinking. Sì, osservo però che proprio ieri, se guardo sui giornali inglesi della settimana scorsa, l'Irlanda sta facendo esattamente lo stesso. L'Irlanda sta preparandosi attivamente per spostare a Dublino molte attività finanziarie che oggi sono a Londra. Secondo me Milano è meglio di Dublino. Piove meno, tutto sommato, no? Per esempio. Grazie professore, buona domenica a presto. Grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, e questo è il momento della nostra Sunday Girl. Manager, già ministro politico, già sindaco della città di Milano. Insomma, l'avete capito, la nostra Sunday Girl è Letizia Moratti. Benvenuta, buona domenica. Buona domenica a tutti voi e grazie. Autrice di un libro che è stato pubblicato da pochissimo, Milano tra storia, realtà e sogno. E dunque, Milano è giudicata una città frizzante oggi, lo dice il Financial Times. Il New York Times l'ha messa in cima alle mete internazionali da visitare nel 2015 e è tornata al centro dell'interesse internazionale. A cosa dobbiamo questa svolta, secondo lei, Letizia Moratti? Io credo che questa svolta la si debba alla storia di Milano, alle caratteristiche che Milano da sempre ha, al DNA di Milano e ai milanesi. Milano da sempre è stata ed è una città estremamente operosa, è la città che produce il 10% del PIL italiano, ha un welfare inclusivo, quindi servizi ai cittadini, soprattutto alle fasce diciamo più critiche appunto rispetto al welfare, quindi non so, bambini e anziani molto diffusi sul territorio e anche innovativi, ha un tasso di occupazione femminile 20 punti sopra la media nazionale, quindi diciamo che ci sono una serie di caratteristiche della città che l'hanno portata ad essere quello che è. Credo che le potenzialità che oggi ha Milano sono l'ambizione che può avere Milano proprio per queste sue caratteristiche, può essere quella di diventare un campione dell'agenda ONU 2030, che è questa agenda che tutti i paesi hanno firmato e che si basa su un modello di crescita sostenibile, quindi basato sullo sviluppo economico, sull'inclusione sociale e sulla tutela dell'ambiente. Ecco, nei giorni scorsi Francesco Zoazzi, che è stato ospite pochi minuti fa, ci ha un po' fatto sognare dalle colonne del Corriere della Sera, dicendo guardate che un po' cinicamente, se per caso gli inglesi votano a favore di Brexit, escono dall'Unione Europea, forse Milano potrebbe approfittarne. C'è un però grosso come una casa però, perché il professor Zoazzi identifica in tre necessari cardini la possibilità di giocarsi questa partita e far diventare Milano un'alternativa finanziaria a Parigi o a Francoforte. Il primo di questi punti importanti è una regolamentazione che tranquillizzi gli investitori internazionali. Lei, che è stata sindaco di Milano, che il 16 ottobre del 2006 ha depositato la candidatura ufficiale di Milano a ospitare Expo 2015, che è stata ministro, è stata presidente della RAI, insomma lei sa come ci vedono all'estero. Secondo lei ce la può fare Milano a giocarsi questa partita, indipendentemente poi da come andrà Brexit? Perché gli ostacoli per investitori internazionali sono gli stessi da decenni. Diciamo che Milano in questo senso è posizionata bene. Noi abbiamo circa 3.000 multinazionali che hanno sede a Milano e sui circa poco più di 70 miliardi di investimenti esteri diretti, su 118 miliardi di investimenti esteri diretti, più di 70 sono investimenti che sono localizzati a Milano. Caspita, quasi due terzi, io non sono bravissima in matematica. 73 miliardi su 118, quindi noi come Italia non brilliamo negli investimenti esteri diretti a livello nazionale. Questo è il dato 2008, ma era anche l'ultimo disponibile, quindi però diciamo che appunto Milano ha già delle caratteristiche positive, è comunque sede di una borsa che non è tra le più importanti e ha un pochino perso negli ultimi anni, però è comunque una città che può giocare un ruolo. Allora, rispetto a questo, io credo che però dovrebbero esserci dei cambiamenti che potrebbero essere legati a un progetto che tra l'altro so essere stato presentato anche ai candidati sindaci in questo momento, che è il progetto di Milano Città-Stato. La nostra carta costituzionale, l'articolo 132 della Costituzione, prevede che una comunità che ha oltre 1 milione di persone può chiedere l'autonomia diventando come una regione. Ci sono già degli esempi in Europa, quindi Londra, Parigi, Madrid, Berlino, che negli ultimi diciamo 20 anni hanno aumentato molto la loro autonomia dallo Stato centrale, e Milano potrebbe farlo. Per esempio, tornando ai vincoli di cui appunto giustamente parla Zoazzi, Milano città-stato potrebbe avere un'autonomia, per esempio, nel trasformarsi in una free zone. vale a dire in una zona economica speciale. Tenga presente che le zone economiche speciali si stanno diffondendo un po' in tutto il mondo, in questo momento sono circa 3.000 in 135 paesi, quindi la caratteristica delle free zone è quella di avere proprie leggi fiscali, societarie, leggi del lavoro e una burocrazia semplificata. Quindi in sostanza nella free zone più che una tassa si paga una sorta di prezzo annuale di permesso per operare. Si potrebbe immaginare, per esempio, inizialmente di applicare un modello di free zone per le nuove aziende che nascono o che arrivano sul territorio, quindi questo faciliterebbe, certo, l'insediamento di aziende internazionali, al di là tra l'altro dell'ipotesi della Brexit. Quindi io credo, indipendentemente che da come andrà, questo progetto di Milano Città Stato in sostanza è una evoluzione intelligente e molto ben articolata di quello che era in nuce un po' il tavolo per Milano che allora la mia giunta aveva con il governo centrale aveva realizzato. Esatto. Senta, lei appunto da sindaco di Milano ha conosciuto bene le potenzialità che ne fanno una città dove si vive bene. Mettiamoci nei panni di una donna, che cambi città, che da Londra o da Francoforte decida di tornare con la sua famiglia, sia per seguire il marito che cambia lavoro, sia perché è lei che viene chiamata a trasferirsi. Che scuole trova? Che qualità di vita trova rispetto a Londra o rispetto a Francoforte? A parte i vantaggi economici, perché le case costano meno e in generale costa tutto un po' meno. Sarebbe un vantaggio per questa donna tornare a Milano o no? Ma guardi, io credo che la qualità della vita a Milano è una buona qualità di vita. Diciamo che c'è un tasso di, per esempio, di asili nido che per una donna che lavora ovviamente è un parametro importante, elevato, diffuso nel territorio milanese, quindi sicuramente da questo punto di vista non troverebbe difficoltà e anzi troverebbe un contesto sicuramente favorevole. La qualità delle scuole è una buona qualità, così come la qualità delle università, quindi diciamo che dal punto di vista educativo, e sicuramente a una donna questo interessa e importa molto, la qualità dell'educazione a Milano è sicuramente una buona qualità. Buona anche ovviamente la qualità dei servizi di sanità, quindi c'è un complesso di ragioni per cui una potrebbe dire non cambio in peggio, insomma. No, ma tra l'altro Milano, appunto, dicevo, buone scuole, buone università, servizi anche per gli anziani, quindi una donna che decidesse di trasferirsi avrebbe anche tutta una serie di servizi per gli anziani che sicuramente sono diffusi sul territorio e personalizzati. C'è una cultura diffusa, quindi il numero di teatri, il numero di... poi diciamo, la città della moda, quindi è importante anche per una donna. Non so se può essere un vantaggio o uno svantaggio, quindi dipende dall'inclinazione allo shopping. Esatto, sì. Dall'inclinazione allo shopping, però sicuramente anche questo ovviamente insomma ha un suo appeal e comunque è un vantaggio. Ecco, quindi... Letizia Moratti, in conclusione però, al resto d'Italia, no? Converrebbe giocarsi Milano come piazza finanziaria? Che ci guadagnerebbero gli altri italiani? Guardi, io credo che Milano è legata all'Italia e viceversa, cioè, quindi se Milano funziona ed è trainante, poi lo è per tutto il paese. Credo che l'esempio Expo lo ha dimostrato, quindi non credo che Milano debba essere vista, come dire, opposta o conflittuale con il resto del paese. Quindi credo che tutto il paese ne trarrebbe dei vantaggi, quindi in termini di posizionamento stesso internazionale di tutto il paese. Quindi io penso che investire su Milano significa investire sul paese, ecco, penso che questo si possa dire senza ombra di dubbio. Senza campanilismi. Bene, io ringrazio Letizia Moratti, vi ricordo il suo libro pubblicato da pochissimo, Milano tra storia, realtà e sogno. Buona domenica Letizia Moratti, noi torniamo tra pochissimo. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E questo è il momento, lo sapete, della domanda della settimana. Ci scrive Gaia. Lavoro da 18 anni in uno studio legale londinese. Mi sono trasferita qui appena finita l'università e non mi sono mai pentita della scelta fatta. Mi capita spesso di tornare nella mia città, Milano, dove vivono la mia famiglia e i miei amici. E ultimamente devo ammettere che ogni volta che torno faccio sempre più fatica ad andarmene. Sono stupita dal cambiamento che ho subito in questi anni. La trovo internazionale, frizzante, una città viva. Così tanto che sto meditando di tornare a viverci. Sono matta? Allora, lo sapete, è il filo conduttore di tutta questa puntata. Milano è un po' la metafora di quello che potrebbe essere l'Italia e io do subito il benvenuto ai nostri due esperti di questa domenica. Silvia Crippa, Finance Director di Casa Londra, agenzia di consulenza immobiliare che aiuta gli italiani a comprare o affittare una casa a Londra, e Marco Mazzucchelli, Managing Director di Julius Baer. Buona domenica a entrambi. Buongiorno. Marco Mazzucchelli, la tesi che abbiamo largamente affrontato prima, nelle parti precedenti, ed esposta dal professor Giavazzi sulle colonne del Corriere della Sera, è che, appunto, l'abbiamo detto, Milano potrebbe avvantaggiarsi perfino di un eventuale Brexit per cogliere tutto quello che può derivare dall'essere una, o tornare ad essere una città appetibile per la finanza. A quali condizioni secondo lei questo potrebbe succedere? Buongiorno, dunque anzitutto io credo che possa avvenire indipendentemente da Brexit, nel senso che Milano io trovo in questo momento molte carte in regola per giocare una partita nuova e molto competitiva, e non è soltanto questione di qualità della vita. Sentivamo prima l'ascoltatrice che vi ha scritto, è chiaro che apprezza Milano quando ci viene in vacanza o il weekend, ma il punto è che Milano non deve essere soltanto il buon ritiro, il posto dove si va a passare le vacanze o alla fine della carriera, deve essere il posto dove si costruisce anche la propria carriera, la propria vita. E da questo punto di vista basterebbe molto poco, proprio per il fatto che altre piazze, in particolare Londra, hanno perso un po' di smalto. Con qualche intervento mirato, l'Italia e Milano in particolare potrebbe giocare una partita molto interessante. Io credo che le aree di intervento, come aveva sottolineato il professor Giavazzi, non è tanto la qualità della vita dove credo ci siamo, ma è soprattutto dal lato della regolamentazione e del sistema di tassazione. La regolamentazione, le regole ormai sono europee, però noi le applichiamo in modo non particolarmente geniale, nel senso che non diamo un'applicazione intelligente, il regolatore non è un partner ma è una specie di gendarme, è tutto molto faticoso. Dal punto di vista della tassazione, in Italia si guadagna meno ma si pagano più tasse, quindi dal punto di vista competitivo non è particolarmente attraente, si fa molto poco per attrarre professionisti che vogliono mettersi in gioco, che abbiano voglia di provare i propri animal spirit, quindi credo che anche da questo punto di vista si potrebbe fare molto meglio. Quindi lei dice, Mazzucchelli, due cose: cerchiamo di creare delle carriere a Milano, e le carriere le possiamo creare facendo arrivare aziende, investitori internazionali, ma se si cambia il sistema di tassazione, che a questo punto non dovrebbe essere cambiato solo a Milano ma in tutta Italia, proprio per favorire questi investimenti. Ma andrei da Silvia Crippa. Londra ha superato Buenos Aires, è diventata la città straniera con più immigrati italiani al mondo, sono almeno 250.000. Diceva prima Marco Mazzucchelli che però Londra un po' sta perdendo questo appeal che finora ha drenato arrivi da tutto il mondo. È così? Sì, la nostra società Casa Londra, come ha ben detto prima, da 5 anni che offre servizi agli italiani che per motivi di lavoro, di studio e di investimento hanno deciso di trasferirsi a Londra. Gli investitori sono sicuramente molto più cauti e anche le persone che decidono di intraprendere una loro carriera a Londra fanno un attimino i conti con i grossi costi che Londra presenta. Quindi, se noi dovessimo dire alla nostra Gaia, comincia a pianificare un possibile ritorno a Milano, nella tua città, e qui torno a Mazzucchelli, considerate che le due condizioni che lei poneva, una tassazione diversa e un modo di attrarre gli investimenti, sono cose di lungo periodo. Se dovessimo darle un consiglio ora a Mazzucchelli, lei glielo consiglierebbe di lasciare il grande studio legale di Londra e cercare una analoga situazione a Milano, sperando che i prossimi anni si rivelino vantaggiosi per quella che è la capitale morale dell'Italia? Direi proprio di no, questo sarebbe un wishful thinking. Cioè, se è motivata da una combinazione equilibrata di circostanze personali ma anche professionali, io non credo che l'Italia a oggi sia ancora in grado di competere. Quello che mi riferivo prima, e forse la domanda fatta all'altro collega in linea va qualificata, il settore finanziario secondo me a Londra ha perso un po' di smalto. Ad esempio il regolatore a Londra è molto meno user friendly, open for business di prima. Allora questo al margine può essere un fattore d'attrazione per l'Italia, perché basterebbe ripensare un po' al modo con cui il nostro regolatore funziona. Abbiamo un settore finanziario in Italia disastrato, le banche le abbiamo sotto gli occhi di tutti, il risparmio tradito, il testo unico della finanza in Italia risale al 98, forse sarebbe opportuno magari metterci mano nuovamente e ripensare anche all'assetto regolamentare e di tassazione dell'industria finanziaria. Silvia Crippa, lei che è milanese e londinese insieme, quale potrebbe essere il punto di forza per attrarre a Milano, far tornare a Milano o far arrivare per la prima volta a Milano forze fresche, talenti nuovi? Ma sicuramente Milano dà la possibilità, dà una qualità di stile di vita molto alto, se poi lo consideriamo a quello di Londra, per come è ubicata Milano, vicina alle Alpi, vicina al mare della Liguria, permette di staccare il weekend, di avere una mini vacanza tutte le settimane. Il costo della vita è anche considerevolmente più basso, è certo. Rispetto a Londra, basti solo pensare al costo delle abitazioni, e credo che appunto con dei servizi pubblici molto più efficienti, più scuole, più ospedali e più verde, sicuramente molte più persone sarebbero attratte da Milano. Le ultime battute, gli ultimi minuti, io tornerei all'origine di tutto questo dibattito, che è Brexit. Lei, Mazzucchelli, ha detto che bisogna guardare all'ipotesi Milano indipendentemente da come andrà il referendum convocato dal Premier David Cameron per il 23 di giugno. Ma la sua impressione dal punto di vista appunto di chi lavora all'estero e vive tra Zurigo, Londra e parla con tante persone, la sua impressione, Mazzucchelli, è che il referendum alla fine manterrà il Regno Unito dentro l'Europa o no? È una situazione molto fluida, se mi avesse fatto questa domanda qualche settimana fa le avrei detto di no. Oggi la situazione è sicuramente cambiata, credo che ci sia stata una consapevolezza del fatto che la campagna per uscire ha grandi incoerenze, perché si gioca tutto in negativo rispetto all'Europa ma non riesce a fare una proposta in positivo, quindi ha perso molto smalto. Quello che intendevo dire è che comunque una parte di danno il Regno Unito l'ha creato in ogni caso, ha introdotto questo elemento di incertezza, ha introdotto un elemento meno favorevole, direi, complessivamente per fare business, e queste sono delle tossine che restano nel sistema Io credo che oggi, prima di fare altri investimenti a Londra, un'industria, un'azienda finanziaria in particolare, ma anche industriale, ci penserà due volte, perché anche se questa circostanza dovesse essere superato favorevolmente, cioè come permanenza nell'Unione Europea, il referendum, nulla vieta che venga riproposto in futuro. Quindi io credo che questo elemento sicuramente inciderà negli aspetti decisionali in futuro. Silvia Crippa, lei che sensazioni ha dai suoi molti clienti che appunto si rivolgono alla sua casa Londra per trovare casa? Ci sono dei segnali per cui lei ha capito che il referendum sarà a favore della Brexit o contraria? Ma i nostri clienti sono principalmente italiani, sicuramente i clienti che hanno investito sono nel real estate a Londra, sono un po' in ansia di sapere come andrà il risultato di questo referendum e soprattutto ci si chiede cosa avverrà dopo. Sì, è un grosso punto interrogativo, staremo a vedere. Beh, io più che un punto interrogativo però tornerei quasi a un punto esclamativo, cioè Milano ce la può fare con un esercizio di ottimismo della volontà. Allora, in chiusura, Mazzucchelli, se noi torniamo alle cose che abbiamo detto, cioè una tassazione diversa e il modo di attrarre gli investitori internazionali potrebbero davvero fare di Milano una piazza competitiva rispetto a Londra. Però io le faccio un'obiezione banale, ma comunque essenziale. A Londra parlano inglese, a Milano no. Beh, anzitutto auspicabilmente ne parleremo un po' di più, anche perché le nuove generazioni dovrebbero essere in condizione di essere perfettamente bilingue. È vero, la lingua favorisce, però l'italiano è una lingua molto facile da apprendere. Se lei pensa che l'alternativa per chi dovesse spostarsi da Londra e andare magari a Francoforte o a Lussemburgo, sicuramente da questo punto di vista un vantaggio Milano ce l'ha. E poi non dimentichiamocelo, l'aspetto dei costumi, delle attitudini, dello stile di vita, del nostro modo di affacciarci, sono qualche cosa che gioca molto a favore. Io credo che sia estremamente difficile che una famiglia straniera che si trasferisce a Milano trovi un ambiente ostile, indipendentemente dalla lingua. Quindi credo che questo aspetto, nello schema globale delle cose, sia secondario. Dovrebbe avvantaggiarci. Roberto, posso dire una cosa? Sì. Un elemento che non ha detto la Silvia Crippa è che la tassazione per gli stranieri che si spostano a Londra, il famoso resident non dom, cambia quest'anno. Quindi abbiamo un altro fattore che gioca a favore, e cioè che uno dei fattori di attrazione per chi voleva muoversi lì, non essendo un residente, cioè residente non domiciliato, verrà meno, e questo dovrebbe essere una grandissima finestra per un paese come il nostro che invece vuole approfittare dell'occasione. Questo è un elemento più che importante. Grazie a Marco Mazzucchelli, grazie a Silvia Crippa, buona domenica a entrambi. Grazie, arrivederci Maria. Grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Ecco, dopo aver sentito il parere dei nostri esperti, Marco Mazzucchelli di Julius Baer e Silvia Crippa, che vive a Londra, è il momento dei consigli della nostra coach. Bentornata a Nessuna è perfetta. Buona domenica, Carla Ciani. Buona domenica a tutti. Allora, intanto la mail che ci è arrivata da Gaia esprime in sintesi da un lato la voglia di cambiamento. Sto da 18 anni a Londra, sono stata benissimo, ma mi va di cambiare. E dall'altro un ritorno alle proprie radici, perché Milano è la sua città e ogni volta che rientra, magari per un weekend, ci scrive, no, avrebbe voglia di non partire più. La domanda che mi faccio e che penso possa essere utile a Gaia e a quanti vivono questo stesso dilemma è: vale la pena di fidarsi della voglia di cambiamento? Vale sempre la pena di fidarsi della voglia, anche perché la voglia in qualche modo è arrivata, quindi bisogna dare spazio a queste emozioni che accompagnano il desiderio. Bisogna però comprendere quali sono le vere radici di questo desiderio. Sai, spesso l'assetto, la nostalgia ci fanno colorare un po' di rosa, no? Le cose che vediamo, quindi dobbiamo fare un'analisi un pochino più oggettiva, quindi sentire questo desiderio di cambiamento, ma capire come possiamo poi concretizzarlo senza perdere il valore che abbiamo acquisito con un'esperienza così importante come essere stati tanti anni all'estero. Ecco, che cosa deve valutare Gaia prima di prendere una decisione? Vale a dire, certamente il fattore professionale è fondamentale, quindi vedere se a Milano le offrono una posizione più o meno analoga a quella che ha a Londra. Ma insieme a questo deve tenere conto anche, che ne so, della possibile delusione, perché un conto è tornarci per un weekend nella città che è stata sua e un conto è tornarci stabilmente. Potrebbe esserci un contraccolpo rispetto ai 18 anni vissuti all'estero, oppure invece potrebbero esserci delle sorprese positive. Che tipo di domande deve farsi? Deve farsi innanzitutto, deve in qualche modo ripercorrere le motivazioni che l'hanno spinta ad andare e valutare bene ciò che lei ha conquistato con questa esperienza, cercando di mettere in ogni scelta l'obiettivo di aggiungere valore a ciò che lei ha fatto. Quindi nell'ipotesi di declinare la sua esperienza professionale a Milano, dovrebbe valutare una possibilità di aggiungere qualcosa oppure di attivare un cambiamento anche professionale, quindi andare con un orientamento a mantenere, garantire il patrimonio che ha acquisito e aggiungere qualcosa a questo patrimonio. Quello che io suggerisco in questi casi è fare una sperimentazione concreta, come dire, dell'ordinario. Ora, quando lei viene in Italia per il weekend, sicuramente trova delle situazioni piacevoli, ma in qualche modo straordinarie. Prendersi un tempo, un'aspettativa, per sperimentare invece l'ordinario, il quotidiano, le consente di avere una visione molto più oggettiva. Andare in banca, prendere la metropolitana, prendere il metro, sì, aspettare qualcuno che non arriva e che ti ha promesso una certa puntualità. Se ha figli, verificare, perché questo non lo precisa, presumiamo che non ne abbia, ma se ha figli, fare un giro delle scuole, vedere come si troverebbero, insomma, valutare gli aspetti della vita pratica. Sempre con l'intento di mettere un valore aggiunto, sai, se ci fossero figli, i figli ovviamente hanno percezioni, abitudini diverse, un marito magari non italiano ha anche abitudini diverse, quindi bisogna che lei sia attenta a non proporre una rinuncia, ma un incremento di valore nella scelta che in qualche modo poi coinvolgerebbe anche le persone che le stanno intorno. Quindi, messaggio molto preciso, quindi se pensate a un cambiamento di città, e abbiamo parlato per tutta la puntata di un, per esempio, ritorno a Milano, ma Milano è la metafora, no, dell'Italia, certo, vale per tutto, certo. Ascoltate quello che la nostra coach Carla Ciani vi segnala, deve essere un andare a star meglio, un andare ad aggiungere valore alla propria vita, non solo un ricordo nostalgico, non soltanto un ritorno. Come dice la canzone, tinge in meglio qualsiasi cosa, ma entrare proprio nel quotidiano, rivivere anche le cose semplici, considerando che nel tempo in cui questa persona è stata all'estero, quello che ha visto tornando in Italia per brevi periodi era sicuramente qualcosa di, appunto, straordinario. È l'ordinario che ci conforta sempre sulle nostre decisioni. Grazie Carla Ciani, buona domenica, e buona domenica a voi che ci avete seguito anche questa domenica. Ricordatevelo, è appunto un giorno di riposo. Bandiamo il multitasking.